proposito di là, però visto con le tartarugine delle d'acqua dolce, sulle piccoline. Tu porta Manuela, papà compra, ma papà compra, ma avevo l'acquario vuoto, non c'avevo più pesci. Mi erano tutti morti e l'avevo lasciato fuoco com'era. E te dopo le mettiamo, ehi papà, c'è l'acquario che è grave, non ci sono più pesci. E alla fine le ho comprate, le ho comprate una bella famigliola, 4 o 5 le ho comprate. E le ho messe l'acquario, le ho messo un po' di acqua e si arrampicavano, un po' di polistirolo per stare sopra, perché non se notano, poi salgono sopra per riposarsi. Ma questa che pure era messa male, e l'ho presa in mano, perché era quasi incastrata tra un tronco e una roccia che c'era. L'ho presa con la mano per non farla morire, e mi ha detto, papà fammela vedere. L'ha toccata tutto quanto, io la vedo con la vicina al naso, ragazzi, non mi aggraffa il labbro, mi ha fatto vedere le stelle, non mollava. Che c'era tutto l'altro, scende la fissi. Allora un giorno mi sono appentato e gli ho lasciato solo la spugnetta nuda, senza la cimitella. La mettendo le parti e sembrava che c'erano ancora avanti, poi era cominciato, prima non confusionava una parte, poi l'altra, poi qua, poi là, alla fine era già gabbata. Scusa, perché non ti prendi quelle che sono il giorno? Non so se per farlo, mi piace. Mi piacciono più quelle grandette. Quella di Manuela poco fa, quella che stai scendendo giù, no? Le Sennheiser, quelle che abbiamo preso in continente. Ma sono quelle scendendo un bel bene. Però l'unica difficoltà è che con Luigi non è detto ma ce ne escono dalle orecchie. Ma se viene come ti porto io quelle però alle orecchie, non lo so. Buono, buono. E adesso vediamo, dove le ha prese tutte le vite. Allora, queste qua, già te lo dico, queste qua che ho io sono Thomson, e sono quelle diciamo medie, ma non sono bello pulito. Poi ci sono le Thomson che costano un po' di più, e le ho preso anche quelle, ma quelle le ho prese per l'MP3. Sono quelle sempre... è il filo lungo, è per qua. No, è corto, ma io ho la prunga. C'ho la prunga se la voglio attaccare da altre parti. Tipo, se la voglio attaccare qua, ascoltare. C'ho anche la prunga, è fatta. E... no, già è abbastanza lungo, comunque. Per attaccare la radio ci vuole sempre la prunga, come ce l'ho io. Poi ci sono le Thomson, come dici tu, quelle così, da... quella diciamo attrezzare con l'archetto, che sono una figata, io non ce li ho, c'è un'altra persona, vabbè diciamo le porte, ma sono bestiali, sembra il suono di veramente stereofonico. Buongiorno, ti faccio sentire le mie Sennheiser come si sente, molto buone. Le Sennheiser sono delle cuffie particolari, e si sente proprio tutti in bassi, proprio si sente come quando c'è il sub. Sai, c'è l'altro, la vuoi giù, cazzo, me lo preso, cuffie nuove, se vuoi, oia. Mai. Troppo grandi quella senza filo, se sono quella che penso io la monto anche io senza filo, sono troppo barazzuri, io le voglio piccoline, ci devono stare nel cassettino del mio mobiletto, se no l'avrei lasciato le Sennheiser, ma c'erano le auricolari troppo grandi, non si passano nemmeno, è la stessa cosa che vuoi entrare a me nel tuo cassetto, la stessa cosa. Facciamo padre io, perché alzava il volume del televisore e il padre si lo metteva perché lui non sentiva giustamente. Io però gli ho fatto un bel trattamento, gliel'avevo fatto col fuoco, con la spiraletta di fuoco, e non ha funzionato come questo qua, gli ho fatto messo lo spray e poi mi ha detto che mi sentiva amplificato. Nelle orecchie, perché alzava il volume del coso del televisore, non sentiva nulla, quindi alzava tutto il volume del televisore e tutto il passo si lamentava, capito? E avevo comprato prima le cuffie e non le ha volute. Allora, ho cercato altre strategie, ho cominciato a cercare prodotti per le orecchie, alla fine l'ho fatto sentire bene. Ieri gli ho passato questo spray per le orecchie, gli ho messo i cottoni, tutto quanto, dopo ho guardato i cottoni mi sentiva bene, lo chiamavo, si girava e diceva: ma ci senti? Sì, ti sento. Cosa è successo? Che deve essere inceppato, è caduto e ha sbattuto una costola alla fine della costola al bidet. Mezza forma, se mezza forma le compra a terra, ormai c'era qua.